Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Ripresa lenta e insidiosa, a rischio imprese e posti di lavoro, dice Confindustria. Per la presidente Marcegaglia, però, siamo fuori dal tunnel. Istanbul invasa dalle acque, le vittime nella capitale turca sono decine, in poche ore è piovuto quanto normalmente avviene in 3-4 mesi. Venerdì, i funerali di Mike Bongiorno a Milano, mezzo americano, il re dei quiz fu fondamentale per insegnare l'italiano agli italiani. Ora tocca vincere, si spera convincere. Gli azzurri di Lippi questa sera la prova contro la Bulgaria. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione di GR24 che apriamo parlando delle stime che sono state fornite questa mattina e dalle analisi economiche che sono state fornite questa mattina dal centro studi di Confindustria. La presentazione è stata seguita dalla nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, il peggio ormai alle spalle, ma la ripresa sarà lenta e lunga e per questo insidiosa, quanto sostiene il centro studi di Confindustria, che migliora leggermente le stime precedenti con un PIL 2009 a meno 4,8% che poi crescerà più 0,8% nel 2010. Ma Confindustria avverte, i nodi della crisi restano, i prossimi mesi saranno decisivi per molte aziende perché l'Italia è ancora in pieno dentro le conseguenze della bufera economica. Sentiamo il presidente di Confindustria, Marcegaglia. Risottolineiamo che forse siamo fuori dal tunnel della recessione, ma la crisi non è finita e avremo davanti un periodo ancora lungo per poter tornare ai livelli di produzione che abbiamo avuto prima della crisi. Ad allarmare Confindustria anche il dato sull'occupazione: negli ultimi 2 anni sono stati persi 700.000 posti di lavoro e potrebbe non essere finita. E così ha commentato il ministro del lavoro Sacconi, che è intervenuto questa mattina. Noi dobbiamo tenere la guardia alta sull'occupazione e soprattutto fare in modo che coloro che sono costretti all'inattività possano mantenere competenze e riconvertirle magari anche per altri lavori, e quindi si impone prepotentemente il problema della formazione. Grazie dunque Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo all'estero e andiamo ad Istanbul, la capitale turca letteralmente invasa dalle acque, stando anche alle immagini che stanno diffondendo in queste ore i circuiti internazionali e le televisioni turche. Noi ci colleghiamo con Istanbul con la nostra Marta Ottaviani. Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il terrore per Istanbul non è ancora finito. Nonostante abbia smesso di piovere, l'esercito è ancora impegnato nelle operazioni di salvataggio. Il prefetto di Istanbul, Muammar Güler, ha reso noto che il bilancio ufficiale delle alluvioni in questo momento è salito a 30 vittime, 23 a Istanbul questa notte e 7 durante le piogge che si sono abbattute ieri sulla Tracia, la regione europea della Turchia. Pochi minuti fa, tra l'altro, è arrivata la notizia che, secondo il quotidiano Hürriyet, ci sarebbero 12 persone che risultano come disperse. Le operazioni di salvataggio sono coordinate dall'esercito, che sta portando in salvo le persone letteralmente intrappolate nell'acqua. Molte strade sono chiuse al traffico e lo rimarranno anche domani. Tanti edifici, tra cui il nostro, hanno riportato seri danni. Si lavora in condizioni critiche con il timore che possa tornare a piovere in modo violento, come peraltro hanno detto le previsioni meteorologiche, e in 15 regioni è scattato lo stato di allerta almeno fino a sabato. Decine di persone sono state costrette ad abbandonare temporaneamente le loro case e per loro sono stati predisposti centri di accoglienza mobili dove vengono consegnate coperte e pasti caldi. Per il momento da Istanbul è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marta Ottaviani, torneremo a collegarci con te nel corso della giornata per sapere che cosa succede appunto nella capitale turca. Noi restiamo all'estero e parliamo di Stephen Farrell, il reporter del New York Times, che è stato liberato con un blitz dai talebani che lo tenevano in ostaggio da 4 giorni, e però nel blitz è rimasto ucciso l'interprete di Farrell, Mohammed Sultan Munadi. Il servizio. Alle 7.30 di oggi Stephen Farrell, inviato del New York Times, 46 anni, telefona alla collega Susan Kira del Times per raccontarle che è libero. Aggiunge Farrell che per arrivare alla sua scarcerazione è stata eseguita una gigantesca operazione militare. Quando scatta il blitz, i talebani, che da 4 giorni tengono in ostaggio Farrell e il suo interprete, fuggono. L'inviato del New York Times dice di aver avuto attimi di paura e dubbio, poi la decisione di precipitarsi fuori a mani alzate. I proiettili, racconta, ci volavano attorno, dispositivo voci britanniche e afghane. Farrell e il suo interprete hanno percorso un tratto a riparo da un muro, poi quando il muro è finito Farrell ha detto che l'interprete è uscito allo scoperto ma è stato colpito a morte dai proiettili. Munadi, così si chiamava l'interprete afghano, era stato ingaggiato dal New York Times ed era conosciuto da molti altri giornalisti. Alla redazione esteri del New York Times dicono che Munadi fosse un giornalista straordinario e una persona straordinaria. Questa notte, mentre i militari portavano in salvo Farrell, il corpo di Munadi è rimasto senza vita sulle scale. Nessuno lo ha portato via. Farrell, britannico, era stato sequestrato assieme al suo interprete Munadi nella provincia di Kunduz il 5 settembre, all'indomani di un bombardamento aereo di un F-15 statunitense su due autobotti della NATO rubate dai talebani, che aveva causato decine di morti, fra cui molti civili. Nel blitz di questa notte sembra siano stati uccisi dei civili, ma non riusciamo a darvi conferma della notizia né del numero di persone coinvolte. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio dall'Afghanistan nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la storia di un giornalista finalmente liberato dopo essere stato messo in carcere, aver rischiato la condanna a morte per essersi interessato di diritti delle donne. Ebbene, oggi a Roma si apre il cosiddetto G8 sui diritti delle donne. Sentiamo com'è andata questa prima giornata di lavori. Un incontro che non vuole limitarsi a lamentare le condizioni delle donne, ma che vuole impegnarsi per cambiarle. Con queste parole il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna ha aperto la conferenza internazionale contro la violenza sulle donne, enunciando poi i suoi intenti. Intendiamo uscire di qui con una ambiziosa promessa comune al mondo, un documento che impegni ad agire concretamente con l'informazione e l'azione legislativa. Una conferenza a cui ha preso parte anche Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che il problema dei diritti delle donne non riguarda solo paesi poveri o in guerra, ma anche quelli più avanzati come l'Italia. Dico questo in riferimento purtroppo al mio stesso paese. Continuano a verificarsi fatti raccapriccianti di violenza di gruppo contro donne di ogni etnia. Un'occasione nella quale Napolitano ha posto l'accento su ogni tipo di discriminazione, da quelle sulle donne fino a quelle contro gli omosessuali, nella speranza che il clima di intolleranza che sta attraversando l'Italia possa svanire al più presto. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E continuiamo a parlare di diritti umani perché è a questi che fa riferimento un magistrato di Genova in una lettera che sta facendo discutere la città e non solo. L'interesse dei minori è superiore ad ogni altro elemento, come sottolinea la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Così scrive alle questure delle quattro province ligure, ai comandi regionali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, il presidente del Tribunale dei Minori di Genova, Adriano Sanza. Il contenuto della lettera, ai toni di un appello ad aggirare la nuova legge sull'immigrazione varata dal governo e gli accordi bilaterali sui respingimenti alle frontiere. Alle forze di polizia dislocate nella giurisdizione che va da Ventimiglia a Massa, scrive ancora Sanza. Anche in presenza di eventuali diverse disposizioni, le leggi nazionali ed internazionali impongono di salvaguardare l'interesse dei minori, accertare la loro identità e di chi ne esercita la potestà, garantendo, quando occorra, l'asilo o lo status di rifugiato, informando direttamente il Tribunale dei Minori per ogni intervento di sua competenza. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. La morte di Mike Buongiorno. La salma dovrebbe arrivare a Milano tra questa sera e domani mattina da Monte Carlo, dove ieri è morto, e domani dovrebbe essere esposta nella camera ardente allestita alla Triennale di Viale Alemagna, sempre a Milano, dove si prevede arriveranno moltissimi cittadini a portare il loro ultimo saluto al padre del telequiz italiano. Il funerale nel capoluogo lombardo forse venerdì prossimo, poi la sepoltura ad Arona sul Lago Maggiore. Mike Buongiorno ha lasciato un segno non solo nella storia della televisione, ma anche del costume e della nostra lingua. Con la sciara doppia la televisione è entrata nella cultura popolare italiana, diventando un momento di aggregazione per le famiglie italiane alla vigilia del boom economico. E Mike Buongiorno ha insegnato l'italiano agli italiani che allora parlavano soprattutto in dialetto. Parola di Francesco Sabatini, docente di storia della lingua italiana, autore di un vocabolario e presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Per avvicinare all'uso dell'italiano una massa di dialettofoni allora si calcolò che erano il 66% le persone che usavano pochissimo e conoscevano pochissimo l'italiano. Occorreva proprio questo, un mezzo che invadiva un po' tutte le case, uno spettacolo attraente, semplicotto, come vogliamo chiamarlo, e un linguaggio semplice e un volto accattivante e sorridente come quello di Mike Bongiorno. Un riconoscimento per il quale lo stesso Mike Bongiorno ebbe modo di ringraziare commosso il professor Sabatini. E da traghettatore quale fu verso l'italiano di massa, nei suoi panni di persona semplice e non irraggiungibile, svolse il perfetto compito di semplificare anche il linguaggio. Tutto il linguaggio della sovraddoppia era semplice, ma anche stereotipato, ma anche efficace, insomma. Tutto il linguaggio della domanda, della risposta, il termine che trionfò allora è esatto, risposta esatto. Bravissimo, la risposta è esatta. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo a parlare di spettacoli, ma ci spostiamo a Venezia per la Mostra del Cinema con la nostra inviata Marta Cagnola. Oggi si parla di cinema italiano, Marta. Sì, oggi si parla di cinema italiano perché in concorso c'è Il grande sogno di Michele Placido e inevitabilmente anche oggi torniamo a parlare di cinema e politica perché questo film aveva già suscitato polemiche all'inizio della Mostra del Cinema senza ancora essere visto, perché un movimento di destra romano aveva imbrattato tutti i manifesti del film a Roma scrivendo No 68, proprio perché il film appunto è dedicato al sogno, all'utopia del 1968. Grandi polemiche, Michele Placido ha avuto la solidarietà del sindaco di Roma Gianni Alemanno, oggi alla proiezione ci sarà sicuramente il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, ma intanto sentiamo come ha commentato il regista del film Michele Placido tutte queste proteste e la solidarietà che ha ricevuto. Una cosa che mi pare positiva che sta avvenendo in questi giorni, mi stanno chiamando moltissimi circoli culturali di destra. Credo sempre che l'aspetto più straordinario del 68 è quello che ha abbracciato tutta una generazione di giovani. Il problema nasce dopo, no? È nato dopo nel 69, ma il fatto che forse questo film può invitare al dialogo come riflessione di quegli anni anche i circoli di destra, io lo trovo positivo. Infatti mi stavo confidando con l'amico Pasquini, dice ma in genere non ci si va, ma io ci andrei. Ecco, lui vorrebbe andare a parlare nei circoli di destra, l'ha detto questa mattina a Michele Placido. Il film ha ricevuto un po' di applausi, non tantissimo, ma qualche applauso sia la prima proiezione per la stampa, e Placido era molto sollevato perché invece il film precedente che aveva portato a Venezia qualche anno fa era stato stroncato, c'erano stati molti fischi, Placido era molto molto preoccupato. Bene, grazie Marta Cagnola anche per oggi e vedremo se ci andrà insomma in questi circoli di destra a presentare il film. Noi chiudiamo, abbiamo parlato della Mostra del Cinema, parliamo adesso di un festival. Sono più di 1000 i festival ogni anno in Italia, ma oggi inizia quello che è un po' il punto di riferimento per chi ama i libri, è il Festival Letteratura di Mantova. Decine di scrittori da varie parti del mondo per presentare l'ultima novità in libreria o semplicemente per incontrare il pubblico, parlare dei temi più diversi e sottoporsi al fuoco incrociato delle domande. Nomi di punta di quest'anno al Festival Letteratura di Mantova: il cileno Luis Sepúlveda, il Nobel sudafricano Nadine Gordimer, lo scrittore indiano Amitav Ghosh, ma anche la regina della saga I Love Shopping, Sophie Kinsella, la giallista spagnola Alicia Jiménez Bartlett e Muriel Barberi, che ha firmato uno dei bestseller degli ultimi tempi, ossia L'eleganza del riccio. Eppure il punto di forza del festival non sono i grandi nomi, come spiega il presidente del comitato organizzatore Luca Nicolini. Ci sono tutta una serie di proposte, anche di letterature, se si vuole, meno conosciute, dall'Africa all'Estremo Oriente. Verrà perfino una scrittrice del Bhutan, che è un piccolo paese nella zona dell'Himalaya. Ci sarà un focus importante sulla ex Jugoslavia, con una serie di scrittori serbi, bosniaci, croati. Cioè, andiamo alla ricerca, se possibile, di aperture verso letterature diverse. Come sempre, per accedere agli incontri bisogna pagare un biglietto di pochi euro, e questo per garantire un pubblico realmente interessato all'evento. Potete trovare il programma sul sito www.festivalletteratura.it. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. È notizia di poco fa che la Procura di Monza ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti, ipotizzando i reati di accesso abusivo al sistema informatico, falsificazione di atto pubblico in relazione alla vicenda Boffo Feltri, sulla base di un esposto dell'Italia dei Valori. Le 13:19 minuti 8 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di Confindustria, il centro studi di Confindustria che parla di una ripresa lenta e insidiosa, abbiamo parlato di Istanbul, la capitale turca che è invasa dalle acque e ci sono una trentina di morti, e poi abbiamo parlato dell'apertura del G8 sui diritti delle donne. Ora ci occupiamo di politica. Cronaca politica che incrocia quella giudiziaria della questione Boffo-Feltri, vi abbiamo riferito prima della pausa per la viabilità, e c'è un'altra questione che campeggia oggi ed è quella dell'inchiesta di Bari sul giro di escort. Ci sono rivelazioni che emergono dall'interrogatorio dell'imprenditore Giampaolo Tarantini. Ci colleghiamo con Montecitorio con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, che cosa emerge? Sì, buongiorno, una trentina di escort per le feste del Premier, incontri con prostitute organizzati per ricambiare i favori ottenuti dall'allora vicepresidente della regione Puglia Frisullo, il pagamento di una cena elettorale alla quale presero parte D'Alema e sindaco di Bari Michele Emiliano, e quanto mette in luce oggi il Corriere della Sera, che dedica due pagine ai verbali degli interrogatori resi dall'imprenditore barese Giampaolo Tarantini agli investigatori della Guardia di Finanza, atti che, lo ricordiamo, risultano tuttora segretati. In particolare quanto pubblicato oggi riguarda l'interrogatorio il 29 luglio scorso, quando Tarantini, indagato per favoreggiamento della prostituzione, spiegò agli investigatori i dettagli su voli, spostamenti ed elargizioni in merito al reclutamento di alcune ragazze per cene ed incontri nelle residenze del Presidente del Consiglio, ragazze che avrebbero ricevuto alcune un compenso di 1000 euro per le prestazioni sessuali, altre soltanto un rimborso spese. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti, vedremo che impatto politico avrà tutto questo e che se ci saranno strascichi di polemiche sulla tensione tra il Presidente della Camera Gianfranco Fini e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nel frattempo però il Parlamento oggi ricomincia a lavorare, sentiamo su quali temi. Dopo 45 giorni di ferie e 100 leggi fatte, deputati e senatori tornano al lavoro. Si riprende oggi e domani, ufficialmente. Ma solo poche commissioni sono convocate per una sola giornata, in genere per occuparsi di provvedimenti di basso profilo. Unica eccezione, l'esordio domani in commissione al Senato del decreto legge correttivo della manovra d'estate. Avvio al rallenti, insomma, e senza lavori in assemblea, perché la ripresa vera e propria è rimandata alla prossima settimana, quando si definiranno le agende dei lavori e i tempi di esame dei provvedimenti che scalderanno l'autunno. A cominciare dal testamento biologico, che la Commissione Sanità della Camera avrà subito all'ordine del giorno, ma in agenda irromperanno anche le intercettazioni telefoniche e la riforma del processo penale. E ancora si riprenderà dall'ultimo dei collegati alla finanziaria rimasti in sospeso, quello sul lavoro pubblico, e dalle norme sulla cittadinanza, che apriranno altre ragioni di scontro per la questione del voto agli immigrati. In pista anche la rinascita del Ministero della Salute e la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Tra 7 giorni dunque si ricomincerà davvero a fare sul serio, anche perché sul tappeto il governo vorrebbe calare la carta delle riforme istituzionali e dei regolamenti parlamentari. A farcela. Roberto Turno, GR24, Il Sole 24 Ore. Comincia oggi, dopo mesi di attesa, il dibattito al Supremo Tribunale Federale, la Corte Costituzionale Brasiliana, che dovrà decidere le sorti dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti e incidere sui rapporti tra Italia e Brasile. A questo è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Sentiamo come è andato. Nessuna amnistia per chi si è macchiato di delitti negli anni di piombo. Le condanne vanno prima scontate. Si sono pronunciati in modo netto i nostri ascoltatori in attesa di sapere se il Brasile concederà l'estradizione a Cesare Battisti, che deve scontare 4 ergastoli in Italia. Oltre il 90% di chi ha partecipato al sondaggio di oggi crede che l'amnistia per gli ex terroristi sia un errore. Chi pensa di poter chiudere una pagina di storia lontana nel tempo, come il verde Paolo Cento, rimane una mosca bianca. Io credo che a distanza ormai di 30 anni, un paese democratico dove per fortuna la democrazia e le istituzioni hanno vinto contro il terrorismo, anziché rincorrere i fantasmi del passato, devono avere il coraggio di chiudere quella stagione. L'appuntamento con Bianco e Nero è rinnovato a domani alle 8:30 su Radio 24. Per esprimere i vostri voti basta andare su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo della Torino-Lione, perché nei prossimi 2 mesi e mezzo arriverà a conclusione il lungo cammino dell'osservatorio sulla TAV, Il Sole 24 Ore Nord-Ovest. Oggi in edicola fa il punto sulla situazione e annuncia che partiranno in ottobre appunto i carottaggi per l'ok definitivo al progetto preliminare. La data è segnata da tempo sul calendario, 25 novembre 2009. Quel giorno i 2 anni e mezzo di lavoro dell'osservatorio sulla linea ferroviaria Torino-Lione arriveranno in porto con la consegna del progetto preliminare per l'alta capacità. E si vedrà se il tavolo di concertazione messo in campo dalle istituzioni dopo gli scontri di Venaus sarà riuscito nell'impresa. Naturalmente l'ultimo passaggio è il più delicato. A ottobre sono previsti i sondaggi del terreno per confermare il tracciato scelto prima dell'estate. E nel dicembre 2005 proprio il sito dei carotaggi era stato il teatro dei tafferugli tra polizia e Notav. La prossima settimana l'osservatorio dovrà riunirsi e dare il via libera agli scavi di controllo, ma il presidente della comunità montana Bassavalle di Susa, Antonio Ferrentino, avverte che se non arriveranno i soldi promessi il 23 gennaio dal governo per potenziare la linea ordinaria Torino-Bardonecchia e il nodo ferroviario di Torino, i carotaggi saranno bloccati. Il presidente dell'osservatorio, Mario Virano, l'architetto manager e un po' diplomatico confermato da Prodi e da Berlusconi, ricorda che ad agosto il sondaggio delle acque si è svolto con il contributo attivo dei sindaci e anche sui carotaggi non ci sono no di principio. Poi aggiunge: io credo che vadano apprezzate le novità rilevanti che ci sono e credo che una seria riflessione intorno a un tavolo per vedere che cosa può accompagnare in senso positivo questa apertura sia una cosa ragionevole, sia una cosa da farsi, che io peraltro ho già segnalato alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Economia, e mi pare che ci siano orecchie attente, occhi attenti e orecchie attente a questo tema. La tela dell'osservatorio, insomma, resta tesa, ma nessuno a questo punto può guadagnare molto da un altro strappo. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo in Africa con un nostro reportage dalla Somalia, dove si trova Giampaolo Musumeci. Vi parlo da Mogadiscio, una città che non esiste. 18 anni di guerra civile, centinaia di migliaia di morti, 1,5 milioni di profughi. La relativa calma di questi giorni è il risultato di un consolidamento delle posizioni delle truppe governative del presidente Sheikh Sharif e degli insorgenti di Al-Shabaab, l'ala oltranzista delle corti islamiche. Le recenti robuste iniezioni americane, armi anche pesanti e denaro, la presenza delle truppe dell'Unione Africana hanno contenuto l'avanzata degli Shabaab, che fino a metà agosto pareva inarrestabile. Buona parte della capitale è ancora in mano agli Shabaab. La comunità internazionale riconosce e appoggia il governo transitorio nato 6 mesi fa. USA e Francia sono sempre più interessate a questa parte del Corno d'Africa. Intanto da ovest l'esercito etiope, in supporto dei governativi, avanza e impegna gli Shabaab, conquistando chilometri su chilometri. Sullo sfondo la tradizionale divisione in clan qui in Somalia, che complica ogni cosa e trasforma ogni vittoria o accenno di pace in un motivo per una nuova possibile guerra. Giampaolo Musumeci, GR24, Il Sole 24 Ore, Mogadiscio. In chiusura lo sport e il calcio. A Torino contro la Bulgaria l'Italia cerca 3 punti fondamentali per la qualificazione ai mondiali di Sudafrica. Azzurro turnover, nessuna bocciatura, nessuna rivoluzione, ma la nazionale che scenderà in campo a Torino sarà profondamente diversa da quella che ha rubacchiato 3 punti in Georgia grazie all'Arachiri di Calazze. Dal primo minuto saranno almeno 4 i cambi di Lippi, uno in difesa con Grosso al posto di Criscito, 2 a centrocampo, fuori Marchionni e Palombo, dentro De Rossi e Marchisio, e l'ultimo in attacco, dove il partner di Iaquinta non sarà Rossi, ma andrà scelto tra Gilardino e Quagliarella. La speranza di Lippi è che basti l'iniezione robusta di forze fresche per scardinare il presumibile catenaccio bulgaro, che si presenta all'Olimpico con una sola punta, Berbatov, e tanti mediani per arginare gli assalti azzurri, che cercano una cura al mal di gol che li attanaglia, sempre con un occhio alla necessità di fare 3 punti. Gigi Buffon. È un dovere, ecco, che noi abbiamo, cercare di migliorare, cercare di diventare magari anche più belli esteticamente, però alla fine quello che conta è la concretezza e sono i 3 punti. Il comunale di Torino, oggi olimpico, rivede la nazionale dopo 28 anni. L'ultima volta fu 1-1 con la Grecia nell'81, qualificazioni ai mondiali poi vinti in Spagna. In certi casi conviene aggrapparsi alla scaramanzia. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro mercoledì ricco di sfide decisive. L'Inghilterra di Capello, vincendo con la Croazia, sarebbe già qualificata ai mondiali. Rischiano l'eliminazione la Francia, impegnata in Serbia, e il Portogallo, che gioca in Ungheria. Sfida decisiva questa notte per l'Argentina di Maradona in Paraguay. In chiusura una notizia di tennis: Flavia Pennetta è stata sconfitta in 2-7 nei quarti di finale agli Open degli Stati Uniti contro la numero 2 del tabellone, Serena Williams. Alle 13:28:47 termina questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Filippo Aureggi. Prossimo giornale radio alle 14:00. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.